24, la storia. Bentornati a Mix 24, stiamo raccontando la storia di Guglielmo Marconi. Siamo nel 1894, quando Marconi, appena ventenne, è a conoscenza degli esperimenti di Hertz sulle onde elettromagnetiche e da quel momento è convinto, quasi ossessionato dall'idea che queste possono essere utili per inviare messaggi a lunga distanza senza bisogno dei fili. Sui tavoli che un tempo erano serviti a suo nonno per allevare i bachi da seta, tra rotoli di filo di rame, sfere di ottone, tasti morse e campanelli, Marconi lavora sui primi rudimentali apparecchi di trasmissione. E qui lavorò tanto su queste onde, giorno e notte, appassionatissimo, chiuso in questa soffitta, e la madre era anche preoccupata, e una notte la chiamò. Gli fece vedere un esperimento e sentire un campanello che suonava a 5 metri di distanza da un tasto telegrafico. Era notte fonda, erano tutte e due con lume a petrolio qui in mano, non c'era corrente elettrica. La corrente elettrica era solo dentro le batterie che lui usava per i suoi esperimenti. E la mamma disse: ma tu mi chiami a quest'ora per vedere questa cosa? Come dire, la potevi far vedere domattina. Mamma, è importante, di qui a lì c'è solo l'aria, c'è un filo d'aria, non c'è nulla. E suona. Come suona? Ma veramente? La madre guarda, osserva, una persona intelligente, una certa cultura, dice: ma Guglielmo, è vero. Per cui qui io ricordo, intendo, che quella notte è nato il wireless. I primi deboli segnali superano qualche decina di metri, ma non sono ancora abbastanza forti. Per giorni Marconi continua a fare prove su prove. Poi, nel corso di un esperimento in giardino, giunge ad un'importante scoperta. Tenevo per caso una piastra di lamiera ricavata da una latta di petrolio ad una certa altezza dal suolo. L'altra piastra, collegata al polo opposto del generatore, giaceva a terra. I segnali a 200 metri divennero subito più forti e decisi. Nasce così, nel giardino di casa Marconi, l'antenna terra. Senza questa scoperta non sarebbe mai esistita la comunicazione via etere. E definitivamente fece un'antenna particolare, sembrava l'albero della cuccagna. Era un palo di legno di 8 metri con 4 capacità, 4 cubi di latta. Voleva di più, voleva che le sue onde potessero passare ostacoli naturali per poter avere in mano una vera invenzione. Marconi chiede al fattore della tenuta, Marchi, di portare il ricevitore al di là della collina dei Celestini. E prendi un fucile e, se senti i miei segnali, spara. Dalla villa Marconi preme 3 volte sul tasto del trasmettitore. È la risposta tanto attesa. Le onde elettromagnetiche hanno superato l'ostacolo, propagandosi per oltre 1 chilometro. Il wireless, l'antenna terra, l'esperimento del colpo di fucile. A soli 20 anni Guglielmo Marconi è all'avanguardia nella sperimentazione con le onde elettromagnetiche. Il giovane inventore è convinto che il suo sistema sarà presto indispensabile, specie nelle comunicazioni via mare, dove il telegrafo con i fili non può arrivare. Nel 1895, tuttavia, le autorità italiane non sembrano interessate a sviluppare le sue scoperte. E Marconi allora capisce che è arrivato il momento di lasciare il paese. Insieme alla madre parte per l'Inghilterra. Alla fine dell'Ottocento l'Inghilterra è al culmine della sua potenza coloniale. Nel febbraio 1896 Annie Jameson e Guglielmo Marconi sbarcano a Londra. Anzitutto brevettare subito l'invenzione, perché lei diceva che non importa chi arriva, chi inventa per primo, ma importa chi brevetta per primo. La madre di Marconi chiede aiuto ad un suo cugino, abile uomo d'affari, che sostiene i primi passi del giovane Guglielmo. I Jameson avevano molti cugini, tra cui uno, Henry Jameson Davis, cugino in primo grado di Guglielmo, grande ufficiale britannico, e non solo, con degli agganci politici molto forti. Henry Jameson Davis presenta a Marconi l'ingegnere capo dei telegrafi inglesi, Sir William Preece. Anche grazie a questa introduzione, dopo aver depositato la sua invenzione presso l'ufficio brevetti, il 27 luglio 1896 Marconi può effettuare un esperimento di trasmissione a 300 metri di distanza. 1897. In Inghilterra Marconi continua a raccogliere successi. Un altro esperimento, da Lavernock Point nel Galles all'isola di Flatholm, porta la capacità di trasmissione a ben 9 miglia. la stampa inglese racconta l'avvenimento in termini entusiastici. E in quel momento i giornali un po' ne parlano, non tutti i giornali del mondo, però l'Italia capisse che insomma avrebbe bisogno di questo Marconi, soprattutto sa che le navi della Marina hanno bisogno del wireless, di questa cosa nuova, e chiedono di vederla, di provarla, eccetera. Luglio 1897, Guglielmo Marconi viene inviato dalla Marina Militare Italiana a condurre degli esperimenti di trasmissione nel Golfo di La Spezia. Ascoltiamo Franco Monteleone, storico della radio, e Francesco Cremona. E in quel momento si raggiunge la distanza di 18 chilometri, ma in quel momento si ha anche il battesimo della radio nel mare. Alla fine, dalla relazione, venne fuori che la radio aveva funzionato abbastanza bene fino a 14 km di distanza. Lo Stato Maggiore della Marina sa cosa scrisse nei suoi verbali? Ma noi non ce ne frega niente. I nostri cannoni sparano a 16 km. Se dunque l'Inghilterra ha già capito e abbracciato il genio di Marconi, in Italia i suoi esperimenti e le sue scoperte vengono accolti con scetticismo, con indifferenza. Ma Marconi è l'uomo delle idee chiare, un uomo già proiettato nel Novecento, ben deciso a sfruttare commercialmente la sua invenzione e soprattutto è ben deciso a evitare che gli venga scippata la scoperta, come è accaduto qualche anno prima a Antonio Meucci con l'invenzione del telefono. Ancora il nipote di Marconi, Guglielmo Giovanelli. Ecco perché all'età di 23 anni, sempre a Londra, siamo nel 1897, lui fonda la Wireless and Telegraph Signal Company, che tre anni dopo, nel 1900, prenderà il nome di Marconi Wireless and Telegraphy Company. Alla nuova società, che ha un capitale di 100.000 sterline, Marconi porta il brevetto, acquisendo la maggioranza del pacchetto azionario. Settembre 1899. Guglielmo Marconi sbarca a New York per la Coppa America. Dal piroscafo Pons, ogni tre minuti, Marconi trasmette l'andamento delle gare al New York Herald, che pubblica i risultati della gara prima che le imbarcazioni tornino in porto. È una delle prime radiocronache sportive della storia. Mix 24. La storia. L'andare sempre più lontano è costato tantissima fatica, investimenti, sperimentazione. Ecco, Marconi da questo punto di vista è stato un personaggio estremamente concreto, perché a questa, come dire, conquista della distanza ha davvero dedicato poi tutta la prima fase della sua carriera, senza grandi proclami, ma un passo alla volta. Bentornati su Mix 24 con la storia. Guglielmo Marconi, grazie al suo genio, alla sua tenacia, ha scoperto come trasmettere messaggi attraverso le onde elettromagnetiche senza bisogno dei fili. All'epoca questo risulta molto importante, soprattutto per le comunicazioni via mare. Per Marconi, però, resta sempre un ostacolo. Usando la stessa banda di frequenza, i segnali mandati dalle navi interferiscono fra loro, impedendo lo sviluppo su grande scala del telegrafo senza fili. Infatti ci fu una conferenza di Berlino in cui si stabilì inizialmente che determinate frequenze, determinati collegamenti dovevano essere fatti in determinate ore del giorno, una volta per quello, però poi il progresso è stato tale per cui non si potevano mettere d'accordo e dire lei telefona del radio, va in radio dalle 8 alle 9, io dalle 9 alle 10. Era Francesco Cremona. Marconi risolve brillantemente anche questo problema. Il 26 aprile 1900 deposita il brevetto 7777 che consente ad ogni trasmissione di rimanere confinata in una precisa frequenza. Marconi ha creato una nuova risorsa nell'etere, lo spettro radioelettrico. Il 7777 sarà il brevetto fondamentale per la radio, la televisione e i telefoni cellulari. Quindi lui brevettò questo sistema che inizialmente rivoluzionò tutti, praticamente ha messo fuori campo tutti quanti. Lui gli ha detto: questo è il sistema per cambiare di frequenza, di sintonia. Se voi volete vi pagate, vi comprate il brevetto mio. Il brevetto 7777 dunque è destinato a cambiare la storia delle telecomunicazioni. Nel 1899 intanto, con il collegamento tra l'isola di Wight e Capo Lizard, Marconi ha coperto una distanza di quasi 300 chilometri. All'alba del nuovo secolo Marconi si sente pronto a una sfida che sembra impossibile, perché è contraria alle conoscenze scientifiche dell'epoca, quella di inviare un segnale da un capo all'altro dell'Oceano Atlantico. Per questa sfida lo scienziato italiano è disposto a tutto, anche a rischiare l'intero capitale della sua compagnia. L'esperimento transatlantico è stato indubbiamente il più clamoroso della carriera di Marconi. Innanzitutto è stata una grande sfida alle conoscenze scientifiche dell'epoca. Le onde elettromagnetiche, propagandosi in linea retta, si pensava non avrebbero potuto superare la curvatura terrestre. Era Barbara Valotti, l'audacia di Marconi sarà premiata da un fenomeno fisico fino a quel momento sconosciuto, l'effetto di rifrazione della ionosfera, così Francesco Paresce, figlio di Degna, figlia della prima moglie di Marconi. Non si sapeva dell'esistenza di questa calotta, un gas ionizzato dalla radiazione ultravioletta del Sole, che creavano questa calotta che si chiama oggi la ionosfera. L'esperimento richiede di superare una distanza almeno 10 volte superiore a quelle sperimentate sino ad ora. Nessuno scienziato ha mai osato tanto. A questo fine decisi nel 1900 di far costruire due potenti stazioni radiotelegrafiche, una a Polju in Inghilterra e l'altra sulla costa degli Stati Uniti d'America. Ma per questa impresa a Marconi non bastano più i piccoli apparecchi quasi amatoriali. Occorrono componenti mai prodotti né sperimentati prima e soprattutto un'antenna di dimensioni straordinarie. La sua idea era: tutto quello che ho bisogno è di tanta potenza e un rivelatore più potente possibile, più sensibile possibile dall'altra parte. Però se è sufficiente, se non è sufficiente non poteva saperlo, perché non aveva la teoria, non sapeva, non poteva fare il calcolo come possiamo fare oggi, non poteva farlo perché non sapeva neanche come farlo e nessuno sapeva come farlo. Impiega tutte le forze della compagnia, ottimi collaboratori, una quantità di lavoro straordinaria e una quantità di investimenti folle. La costruzione di queste due stazioni, per le quali fu necessario arrischiare una ingentissima somma, fu ultimata nell'agosto del 1901. Se non che una bufera danneggiò il padiglione aereo della stazione inglese ed un ciclone distrusse totalmente le antenne della stazione americana. Questo incidente, per quanto grave, non mi distolse dal mio proposito. Mi indusse però a modificarne la trazione, facendo costruire un aereo più semplice per la stazione trasmittente inglese ed escogitando per la costa americana una stazione ricevente provvisoria, nella quale l'antenna sarebbe stata costituita da un semplice filo aereo sollevato da un pallone o da un cervo volante. Settembre 1901. Marconi e i suoi assistenti George Kemp e William Paget si stabiliscono a St. John's di Terranova, la località più ad est del continente americano. I miei assistenti in Inghilterra avevano l'ordine di trasmettere una serie ripetuta di lettere S dell'alfabeto Morse ad una determinata velocità durante certe ore prestabilite. Muniti di palloni, bombole di idrogeno ed aquiloni, i tre si prodigano nel tentativo di alzare il più possibile l'antenna. Scrive William Paget. Il tempo era terribile. Per un paio di giorni lottammo contro gli elementi. Un pallone ci fu portato via dal vento, che strappò la grossa fune di ormeggio come se fosse un filo di cotone. Stavo a guardare ansioso e la pioggia gelata mi sferzava il viso. Il vento ululando creava vortici attorno all'edificio, dove in una stanza buia il signor Kemp stava al ricevitore e il signor Marconi sorbiva una tazza di cacao, in attesa del suo turno di ricevere i segnali che ci stavano trasmettendo da Polju. O almeno lo speravamo. La mattina del 12 dicembre tutto era pronto ed il momento decisivo si avvicinava. Nonostante un fortissimo e gelido vento, si riuscì ad innalzare, dopo molti vani tentativi, un cervo volante che sollevava una estremità dell'antenna ad un'altezza di circa 120 metri. Alle 12.30, mentre ero in ascolto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente ma con tale chiarezza da non lasciare adito a dubbi, una successione ritmica dei tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse. Era nata in quel momento la radiotelegrafia a grande distanza, la distanza di oltre 3.000 chilometri, che sembrava allora enorme per la radio, era stata superata, nonostante il presunto ostacolo della curvatura terrestre che tutti ritenevano insormontabile. A dispetto di tutto e di tutti, Guglielmo Marconi ce l'ha fatta. Il 15 dicembre il New York Times celebra l'impresa in prima pagina, definendola la più meravigliosa conquista scientifica dei tempi moderni. Ma naturalmente un trionfo simile provoca subito invidie e gelosie non solo dal mondo scientifico, ma anche da quello degli affari. Francesco Cremona, studioso di Marconi. La compagnia dei cavi sottomarini, che aveva il monopolio dei collegamenti telefonici e telegrafici tra l'Europa e l'America, attraverso questi cavi sottomarini, intuirono, dice, ma vuoi vedere che queste onde elettromagnetiche che sta studiando sto Guglielmo Marconi un bel momento ci faranno tagliare i cavi, perché arriveranno dall'altro lato con una radio e non più con i fili. Per le società che finora hanno gestito il mercato delle comunicazioni in regime di monopolio, Guglielmo Marconi rappresenta una grave minaccia. Per proteggere i suoi interessi, la Anglo-American Cable Company scatena una violenta campagna di stampa che mette in dubbio l'esperimento di Marconi. Ancora Francesco Paresce. A quell'epoca tutti dicevano, non è possibile, questo baratto ha sentito qualche cosa, però ovviamente ha sentito quello che voleva sentire, questo, tutti dicevano questo. È una campagna che ha successo. Anche grazie a queste critiche, le azioni della Marconi Company crollano. A soli 27 anni, il padre delle telecomunicazioni a grande distanza rischia il fallimento. L'opinione pubblica, intanto, acclama quel ragazzo geniale. Per loro, quell'esperimento con l'aquilone è pura magia. Contro Marconi si scatenano gli interessi commerciali della concorrenza e l'invidia dei rivali, ma la sua audacia è stata comunque premiata dal consenso popolare. Nel 1901, però, la tecnologia wireless è ancora troppo costosa e troppo precaria. Per molti rimane semmai qualcosa di complementare, non di alternativo alla comunicazione via cavo. Inizia qui quella guerra tra wireless e cavo che dura ancora oggi. Marconi dunque è convinto che il suo sistema rappresenti il futuro della comunicazione globale. Lancia la sua sfida alle grandi compagnie dei cavi e costruisce la più grande stazione telegrafica del mondo. Primavera 1902. A Glace Bay partono i lavori di un'immensa stazione radio e delle case che ospiteranno oltre 70 persone tra ingegneri, tecnici e operai. E quindi ha cominciato con le onde lunghe, sempre più lontano, con apparecchiature sempre più potenti, con delle antenne sempre più alte, per creare un condensatore tra la superficie terrestre e questa antenna tanto potente, tanto capace di poter creare una radiofrequenza da mandare. La ferrovia che alimenta la centrale a vapore dei generatori elettrici trasporta ogni settimana 100 quintali di carbone, ma a causa dell'enorme consumo di energia, ogni marconigramma rischia di costare centinaia di dollari. Così Anna Guagnini, storico della tecnica. C'è anche il fatto che Marconi non vende, cioè gli esperimenti hanno successo, dimostrano che il sistema funziona, dimostrano che ha un potenziale notevole, ma fino al 1904 Marconi non vende un apparecchio che sia uno. Richard Vivian, ingegnere capo a Glace Bay, scrive: solo chi ha lavorato con Marconi in quei 4 anni può conoscere il meraviglioso coraggio da lui mostrato nei frequenti momenti di crisi, la straordinaria fertilità della sua mente nell'inventare nuovi metodi in sostituzione di altri dimostratisi inadatti, e la sua capacità di lavorare spesso fino a 16 ore al giorno quando era in corso un esperimento importante. Del resto, gli amministratori della Marconi Company dimostrarono assoluta fiducia in lui, continuando di anno in anno a stanziare ingenti capitali, finché non venne assicurato il successo definitivo. Nell'ottobre del 1907 la stazione di Glace Bay viene aperta al servizio telegrafico pubblico. Marconi intanto ha sposato a Londra Beatrice O'Brien, di origine irlandese come sua madre. Ma la ragazza viene da un ambiente aristocratico molto diverso da quello dei Marconi, e Guglielmo da principio viene visto con sospetto e diffidenza dalla famiglia di lei. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24 con la storia di Guglielmo Marconi. L'inventore, ormai famoso, a 33 anni ha sposato l'aristocratica irlandese Beatrice O'Brien, che frequenta gli ambienti dell'alta società di tutta Europa. Sentiamo il ricordo di Francesco Paresce, nipote di Marconi e di Beatrice O'Brien. I primi anni erano stati molto eccitanti, molto divertenti, poi lui era sicuramente molto innamorato di lei, quindi una vita familiare buona, però con il problema che lui era costantemente in moto. Ancora 2 anni e nel 1911 a Coltano, vicino a Pisa, Marconi inaugura la prima stazione radio intercontinentale in Italia. Per 30 anni sarà la più potente stazione radio d'Europa. Ma è un'altra tragedia del mare che riporta in primo piano l'invenzione di Marconi. Nel corso del suo viaggio inaugurale, il transatlantico Titanic sperona un iceberg e cola a picco. Su oltre 2000 passeggeri se ne salvano solo 700, ma quei 700 lo devono a Marconi e al suo telegrafo che ha trasmesso l'SOS. Dopo la tragedia del Titanic, la Marconi Company si trova dunque a gestire un monopolio di fatto. Il premio Nobel Marconi intanto è ormai un personaggio di fama mondiale, uno scienziato capace nello stesso tempo di stupire e di rassicurare. Insomma, è l'incarnazione del progresso tecnologico che segnerà il nuovo secolo. E di quel genio che è stato lasciato partire troppo facilmente, anche l'Italia adesso non può più fare a meno. Nel 14, a soli 40 anni, Marconi viene nominato senatore del Regno. È una sorta di riconciliazione con un paese che lui ama moltissimo, ma da cui spesso è stato trascurato. Così la figlia di Marconi, Elettra. Lui era molto patriottico, gli avevano proposto, ma subito dopo l'invenzione, quando era giovanissimo, avevano offerto la nazionalità inglese, la nazionalità americana, lui ha sempre rifiutato, voluto rimanere italiano. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Marconi si arruola volontario nell'esercito e il suo contributo alle operazioni militari si rivela subito decisivo. Nel settembre 1915 le apparecchiature Marconi vengono montate anche sui biplani a 2 posti. Nel 1919 Guglielmo Marconi è nella delegazione italiana che partecipa alla conferenza di pace di Parigi. L'Italia è tra le potenze vincitrici, eppure le sue rivendicazioni territoriali vengono respinte. Deluso dalla politica, Marconi decide allora di tornare ai suoi esperimenti. Ma nella sua vita adesso c'è anche un panfilo di 70 metri che si chiama Elettra. Era bellissima, per me era credo, lo yacht più bello del mondo. È stato costruito dal arciduca Carlo Stefano d'Austria per la moglie Maria Teresa, però non l'ha mai usato perché poi è venuta la guerra. E allora era in vendita fra tante altre navi, barche grandi, e mio padre cercava appunto proprio per come sua abitazione poter navigare in tutti i vari mari del mondo. Il panfilo Elettra consente a Marconi di avere a disposizione un laboratorio mobile per continuare i suoi esperimenti in qualunque momento e in qualsiasi parte del mondo. È il regno di mio padre, perché quando lui trasmetteva, riceveva così queste comunicazioni radio, si illuminava, era sorridente, felice, disteso. A bordo dell'Elettra Marconi torna alle origini, ai viaggi, alla ricerca, alla sperimentazione incessante. Una condizione ideale che non tarda a portare nuove intuizioni e clamorosi sviluppi in quel mercato delle telecomunicazioni a cui Marconi stesso ha dato così tanto. Ma per lui non basta, nella sua irriducibile voglia di capire, di scoprire, Marconi sta per varare una nuova rivoluzione, quella delle onde corte. Francesco Cremona, studioso di Marconi. Prima della Prima Guerra Mondiale le onde corte dissero che non servivano a nulla, perché non avevano portata, non avevano mai provato a farle riflettere dalla ionosfera, si perdevano, dicevano che venivano assorbite dalla massa terrestre. E quindi tutti, compreso Marconi, hanno continuato a lavorare sulle onde lunghe. Vengono fuori delle notizie sui giornali che alcuni radioamatori si erano collegati tra di loro con le onde corte. Quando Marconi seppe che queste onde corte, i radiomotori si erano collegati, lui è tornato a riprendersi i suoi ricordi e i suoi esperimenti. È una intuizione rivoluzionaria che però costringe a ripensare apparecchiature trasmittenti e riceventi. Con le onde corte, infatti, occorrono antenne di dimensioni ridotte e una potenza decisamente inferiore per la trasmissione. Il governo inglese gli chiese di organizzare, di costruire tutta la rete di difesa, la rete radio di tutto l'impero britannico, quindi col Canada, con l'Australia, con l'India, eccetera. Si presenta tramite lui, insomma, al governo inglese e gli dice: fermi tutti, io vi realizzo la rete radio imperiale con apparati ad onde corte. Vi faccio uno sconto del 50% perché sono apparecchiature che costano molto meno. Quando tutte le fabbriche, le industrie, radiotelegrafia francese, Telefunken, radiotelegrafia RCA in America, tutti producevano stazioni radio di emittenza, di trasmissione alla grande distanza, sulle onde lunghe, arriva Marconi con queste 100 stazioni, non so quanti erano, tutte sulle onde corte che andavano tiri tiri tiri tiri tiri. 7 aprile 1927, l'inaugurazione ufficiale del servizio radiotelegrafico tra l'Inghilterra e l'Australia è la più lunga comunicazione telegrafica diretta del mondo. Ma il successo internazionale allontana sempre più Marconi dalla sua famiglia. I rapporti con la moglie Beatrice peggiorano sempre di più finché nel 1923 i due divorziano. Ascoltiamo ancora il nipote di Marconi, Francesco Paresce. Lui decise di lasciare la casa che aveva appena comprato per la famiglia a Roma, a Via Raimondi, una bellissima casa lì, dove lei finalmente poteva stare a vivere, non, perché fino allora era sempre vissuto tra un albergo e l'altro, perché girava sempre, e lui ha venduto quella casa, e praticamente senza neanche chiedere la sua opinione, e andare a vivere sull'Elettra. E questo, ovviamente a quel punto lì lei si è sentita fondamentalmente tradita in tutti i sensi, e lì credo che c'è stata l'inclinatura fatale. Uno spirito inquieto dunque, un inventore dalle risorse infinite, ma anche sempre di più un imprenditore abile e vincente. Negli anni 20 la Marconi Company detta legge nella ricerca, nello sviluppo dei brevetti, così come nei fatturati e nei profitti. Nel frattempo, dalla telegrafia senza fili che si limitava a semplici impulsi, si è passata alla trasmissione via etere di suoni e voci. Sono i presupposti per un altro rivoluzionario strumento di comunicazione di massa, la radio. 1922 viene fondata la BBC, la British Broadcasting Company. Tra i suoi fondatori anche Guglielmo Marconi. In Italia la radio nasce per effetto di un compromesso. Un compromesso tra la società di proprietà di Marconi e altre società che facevano però capo a capitali tedeschi e francesi. E nasce la URI, Unione Radiofonica Italiana, che il 6 ottobre 1924 manda in onda la sua prima trasmissione, presentata da Maria Luisa Boncompagni. URI, Unione Radiofonica Italiana, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana. Mussolini si convince nel 1928 che è arrivato il momento di creare un grande ente. Si convince dando carta bianca a Marconi per tutto quello che riguardava lo sviluppo industriale. E si convince dando carta bianca a Costanzo Ciano e ad altri che invece già immaginavano il grande salto di qualità della radio, che poi per 10 anni, dal 1928 al 1938, costituirà questo decennio oggettivamente straordinario, ricco di programmi, di musiche, di canzoni. Nel 1927 Marconi sposa Cristina Bezzi Scali, una giovane appartenente alla nobiltà romana. Mia madre era una fanciulla di 25 anni molto tenuta severamente, questa famiglia che è romana, nobili romani, e è stata portata da un'altra, un'amica dell'età sua, a bordo dello yacht Elettra, della nave di Marconi, che Marconi dava una festa. E lì c'è stato questo incontro, è stato un colpo di fulmine. Nel 1930 Marconi è diventato presidente dell'Accademia d'Italia. Sire, graziosa regina, altezza reale, eccellenze, signore e signori. È ormai un personaggio a tutto tondo dell'establishment fascista e dell'establishment istituzionale. Marconi è ormai l'italiano più famoso al mondo, una vera e propria star della sua epoca. Lui è diventato, insieme con la moglie, una delle icone internazionali del fascismo. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24 con la storia di Guglielmo Marconi. È il 25 marzo del 1930, Marconi stupisce ancora il mondo realizzando il collegamento tra il suo yacht Elettra, ancora nel porto di Genova, e l'Australia, a 20.000 km di distanza. Premendo un tasto dalla cabina di comando, il radiosegnale accende le luci dell'esposizione di Sydney mentre scrosciano gli applausi. Sebbene scientificamente non abbia alcun peso, la dimostrazione ha però un eco in tutto il mondo. Anche grazie a Marconi siamo ormai nell'era della comunicazione globale in tempo reale. C'era questo mago, perché a quel punto era un mago Marconi, in qualche modo, nell'immaginario popolare. Aveva 35 anni di carriera alle spalle. Un mago che è sempre all'avanguardia, in anticipo sui tempi. Nel 31 Papa Pio XI incarica Marconi di costruire una stazione radio nella città del Vaticano. La Chiesa vuole rendersi indipendente dallo Stato italiano per le telecomunicazioni. Così la figlia Elettra. Nel 1931 c'era questa amicizia con Pio XI, perché lui, essendo diventato cattolico, allora ha avuto questa amicizia col Papa, e che era anche uno scienziato. L'impiego delle microonde in un servizio permanente viene oggi qui fatto per la prima volta nel mondo. Di ciò esprimo la mia profonda riconoscenza alla santità vostra, tutta data a facilitare le comunicazioni fra le genti, contribuire al raggiungimento della vera pace cristiana tra tutti i popoli. Ma mentre lavora al collegamento radiofonico tra Città del Vaticano e la residenza estiva del Papa a Castel Gandolfo, Marconi ha un'altra grande intuizione. Nel 1935, a bordo dell'Elettra, Marconi comincia gli esperimenti sul radio eco e sulla navigazione cieca. Vuole dimostrare che si può condurre una nave in porto sfidando l'oscurità e la nebbia. È il principio del radar. Diceva mia madre a me di mettere delle lenzuola intorno alla cabina di comando, dove c'è il timone. Metteva due boe con la distanza giusta per entrare di prua con lo yacht Elettra. Marconi per questi esperimenti si serviva del suo yacht, l'Elettra, e di un certo bilancio per attività sperimentali da fare sull'Elettra che gli veniva messo a disposizione dalla compagnia Marconi inglese. All'inizio dell'estate del 1935 la compagnia Marconi inglese gli tolse i fondi per le sperimentazioni che stava facendo. Era lo storico Giovanni Paoloni. Alla fine, però, le ricerche italiane rimangono incompiute. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, l'esercito inglese si avvarrà di radar realizzati proprio dalla Marconi Company. 3 ottobre 1935, le truppe italiane attaccano l'Etiopia. Pochi giorni dopo, la Società delle Nazioni censura le velleità imperiali di Mussolini, imponendo all'Italia dure sanzioni economiche. Il Duce sollecita Marconi a far valere il suo prestigio internazionale per spiegare le ragioni del regime. E Marconi accettò di farsi portavoce del punto di vista del governo italiano e come dire lo doveva, non è che potesse farne a meno essendo un esponente di rilievo del regime. Arrivato in Inghilterra, Marconi vorrebbe chiarire la posizione italiana dai microfoni della BBC, di cui è stato tra i soci fondatori. Quando si presentò alla sua società, ai dirigenti, ha detto con loro, andò da qualche governante, ha detto io vorrei fare, wow, il microfono è tuo, la BBC l'hai fondata tu. Poi dice, ma cosa vuoi, racconti qualche nuova invenzione, qualche scoperta, qualche... Sì, beh, ma vorrei anche dire che ormai la guerra d'Africa è finita, che noi abbiamo conquistato l'impero e che ormai anche noi siamo una potenza coloniale. In lingua inglese, a Londra queste cose non si dicono. Quindi digli pure al tuo duce, ha fatto la guerra, si è beccato l'impero, ormai la guerra è finita. Per togliere le sanzioni se ne parlerà quando tutte le nazioni saremo d'accordo a dire adesso sblocchiamo le sanzioni economiche al Regno d'Italia. Lui, che fu uno dei fondatori della BBC, gli fu negato la possibilità di spiegare le motivazioni italiane per quanto riguarda la guerra d'Etiopia, e quindi questo è un fatto che lo addolorò moltissimo. Ma poi lui ebbe il coraggio di andare da Mussolini, perché ha cercato di fermarlo, di non farlo entrare in guerra contro l'Inghilterra, di non dar retta a Hitler, e Mussolini si è arrabbiato moltissimo perché lui come dittatore gli osava dare dei suggerimenti, e allora si davano del lei, e in quel momento gli ha dato del voi dite questo perché vostra madre era inglese, e allora mio padre ha visto che era irrimovibile Mussolini, è tornata a casa, io mi ricordo, ero bambina e con mia madre era talmente demoralizzato perché capiva la tragedia sarebbe stata per l'Italia. Ma Guglielmo Marconi verrà risparmiato di vedere avverati tutti i suoi timori. Il 19 luglio del 37, poco prima di un appuntamento con Mussolini a Palazzo Venezia, viene colpito da un attacco di angina pectoris. Muore poche ore dopo, alle 3:45 del 20 luglio del 37. L'Italia e il mondo intero piangono allora uno scienziato che ha segnato in modo irreversibile il suo tempo e il tempo futuro. Quando fu dato l'annuncio ufficiale della morte di Marconi, per due minuti tutte le stazioni radio del mondo tacquero, e quindi il mondo tornò al silenzio che aveva vissuto prima la radio. Neanche la morte, tuttavia, ferma la propaganda del regime. Le spoglie di Marconi, con la divisa di presidente dell'Accademia d'Italia e le insegne di gran consigliere del fascismo, vengono esposte nel Salone d'Onore della Farnesina, dove migliaia di persone rendono omaggio al suo feretro. Tra i tanti discorsi tenuti, quello più straordinario arriva nel 37 e a quel punto lancia un radiomessaggio a Chicago. E fondamentalmente potrebbe dire, avete tutti il broadcasting, avete in tanti la radio in casa, bene, tutto, come dire, è un'evoluzione della mia invenzione, ditemi grazie e arrivederci. Marconi fa un discorso completamente diverso, in quanto sottolinea quasi subito che il broadcasting è una comunicazione a senso unico, e lui dice che il futuro della comunicazione è legato alla possibilità di comunicare uno con uno in qualsiasi punto del pianeta. Nel 37, dopo 40 anni di carriera, non ha ancora finito di immaginare scenari futuri per il wireless, e oggi li abbiamo questi, ci siamo pienamente immersi in questa comunicazione personale, mobile, il punto a punto. Purtroppo Marconi soffre ancora di questa iconografia, questa agiografia che gli è stata fatta, gli è stata appiccicata addosso da quando è diventato famoso. È una mitologia, è un modo di presentare una persona che serve a metterlo su un piedestallo, allontanarlo il più possibile dai giovani, soprattutto come era lui quando ha fatto tutte queste cose. L'Italia, proprio per questo, non ha mai sfruttato la sua scoperta. Le grandi compagnie come la compagnia Marconi, innovative, diciamo nuove, creative, stanno tutte all'estero. In Italia non ce n'è una. L'Italia è da dove è nato tutto questo. Mi raccontava mia nonna, che negli anni 70 venne in visita a Roma Armstrong. Armstrong, quando gli fu presentata mia nonna, dice: io devo ringraziare suo marito, perché senza Marconi noi non saremmo mai potuti atterrare sulla Luna. Non solo, ma anche quello che sappiamo dell'universo, per esempio, che l'universo come è nato, l'abbiamo dalle immagini magnifiche che abbiamo ottenuto dai satelliti che hanno guardato l'universo e che quindi ci dicono anche come è iniziato l'universo grazie al wireless di Marconi. Mix 24 torna lunedì in diretta, come sempre alle 9. Un ringraziamento a Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana. Aruba e VMware, soluzioni cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. Vi ha presentato Mix 24.